Tornato dall'inferno per fare ancora danni. Vi credete grandi, noi sfondiamo i giganti. Colpisco ogni barra per farti male. Non sei il nostro amico e l'attenzione sale. Compare, impara a fare, no a parlare. Parli per non fare, hai imparato a chiacchierare. E sale, sale, ancora di più. Non ti troviamo perché sotto ci sei tu. Lancio queste rime con casualità, come dei dadi che rotolano verso là di là. Non ci sono secchioni in tema di rap. È nella strada, chi non ce l'ha non lo fa. Non sei niente per il pop italiano. Sei un disti, non basta, ma basta la mia mano. Lo sappiamo, beh lo sai. Un nuovo volo, un nuovo suono che ti procura un grosso foro. Sono più pazzo dei ragazzi di Jackass. Li puoi trovare nel peggior bar de Caracas. Che mi blindo, blindo con ogni cin cin. Che mi blindo, blindo con ogni quin quin. La tua crew è in buona sinietta come morfina. La mia crew è una forza che brucia come benzina. Lezione musicale diventa musica rapina. E questo rap rimane musica assassina. Hai paura di me? Ma questo lo so. Sono tarro perché foto quelli sotto shock. Occhio che ti rompo, ti stronco. Nella risa ti foto, vado avanti con il naso rotto. E fischi, vi darò solo questi. Ho scritto più di 1000 testi ancora più complessi, diversi. Se aver fame di successo, io per la fame abbandonato il successo. B che ti sporna, MVK. Il flow che ti spacca di SICH. Traccia chi si spaccia per la più grandassa. E nel tuo stereo per spaccarti la faccia.